spero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve, perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de folhão. Toque do Giaccherini pro Balotelli! Magari non è diventato proprio verde, come raccontava ieri sera Fabio Caressa, però il nome che sta facendo il giro del pianeta oggi, il giorno dopo Italia-Messico, insieme a quello di Pirlo, beh, il nome è sempre quello di Super Mario. Balotelli in tutte le lingue del mondo, come nella nostra copertina, Balotelli che si carica sulle spalle la nazionale di Prandelli, Balotelli che si prende rimproveri per l'ennesima inutile ammonizione rimediata togliendosi la maglia per mostrare i muscoli. Convocazioni aperte anche oggi per dire in diretta cosa ne pensate di Balotelli, della nazionale, di Italia-Messico, della pallacanestro che questa notte ha celebrato gara 5 delle finali NBA e questa sera invece vivrà il quarto atto di Siena-Roma. Insomma, come di consueto, per dirci tutto quello che volete, 800 24 00 24 per le telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, chiocciola tutti convocati su Twitter. E io comincio a salutare Giancarlo Padovan, che lavora sul progetto di Discovery Foot. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ciao. Balotelli in tutte le lingue del mondo, perché ormai è un fenomeno non più italiano, non più europeo, sta diventando un fenomeno mondiale. Sì, c'è un po' di esagerazione da marketing in tutto questo. Direi. Non ha ancora dimostrato di essere il fenomeno a livello di Messi e Ronaldo che lui pensa di poter eguagliare, e forse un giorno eguaglierà, ma bisogna anche diventare più maturi, diventare più bravi, diventare più continui. È comunque un progetto di campione, sicuramente molto ben avviato, e con l'attenzione che gli sta dedicando Milan e Allegri e l'attenzione che gli sta dedicando Prandelli, penso che il progetto possa compiersi. Certamente, se si evitano gli eccessi è meglio. Ricordiamoci che Mario è quello che segna ieri e si toglie la maglia, e questo è un peccato tutto sommato veniale, ma è anche quello che all'espulsione per il doppio giallo in Repubblica Ceca si abbandona a una reazione poco edificante, poco sopportabile, come è successo nel tunnel degli spogliatoi. Quindi ecco, ci sono dei miglioramenti che vanno fatti. Sul campo deve essere più continuo, anche se ieri ha giocato un'ottima partita, e fuori dal campo deve cercare di essere irreprensibile e magari scoprire che in certe manifestazioni come la Confederation Cup e come il Mondiale e come l'Europeo, due cartellini gialli portano a una squalifica. Sì, io ho trovato abbastanza assurda la risposta che ha dato ieri sera: non conoscevo il regolamento, chiedo scusa, come se cartellino giallo in più o cartellino giallo in meno sia una novità appena introdotta, quella che a un certo punto vieni squalificato. Appunto, cioè, voglio dire, non è che se i cartellini gialli per ipotesi fossero stati tre, cioè la squalifica fosse scattata al terzo, questo sarebbe stato meno grave, perché comunque è un cartellino giallo inutile, è un cartellino giallo che poi in parte gli è costato anche la sostituzione, nel senso che un giocatore gravato dell'ammonizione può sempre incorrere in un fallo di gioco che lo porta a un altro cartellino giallo. Quindi Mario, diciamo che va un pochino preso per quello che è, e da un certo punto di vista una sua dose di ingenuità un pochino sventata ce l'avrà sempre. Dopodiché si cresce, si cambia, e io credo che lui abbia ampi margini di crescita per imparare a essere un calciatore di livello anche in queste cose. Poi non caricarlo di troppa responsabilità è una scelta giusta secondo il mio punto di vista, perché poi se le partite ce le deve risolvere solo lui è faticoso reggere questo ruolo. Io credo che ieri sera, per esempio, il sistema di gioco adottato dall'Italia prevedesse proprio questo, e alla fine per fortuna ce l'ha fatta, per fortuna ha trovato il gol che ha dato all'Italia una vittoria preziosa che al 90% ci qualifica per la semifinale. Chiude le porte della semifinale. Certamente, Alex scrive: fino al gol la prestazione di Balotelli era da 5 in pagella, il vero fenomeno è stato come sempre Pirlo, semmai piuttosto che Italbalo bisognerebbe chiamarla questa nazionale Italpirlo. Quel titolo della Gazzetta dello Sport a cui fa riferimento anche il nostro amico che ha scritto al 349-238-6666, titolo in prima pagina ieri, a me personalmente non è piaciuto, già non piaceva l'etichetta di Ital Juve un anno fa per l'europeo in Polonia e Ucraina, un'etichetta tolta un minuto dopo il 4-0 in finale contro la Spagna. A maggior ragione ha poco senso legare i destini della nazionale a un ragazzo che in fondo ieri sera ha segnato il nono gol con la maglia azzurra, e credo che da questo punto di vista un passo avanti dobbiamo farlo tutti, dobbiamo farlo, credo, direttore, prima di tutto noi abbiamo scherzato facendovi sentire Balotelli in tutte le lingue del mondo, però siamo poi noi quelli che la pressione la mettiamo sulle spalle di Balotelli, e magari alla prossima, al prossimo errore, al prossimo cartellino rosso saremo lì a criticarlo e a condannarlo se non ha retto a quella pressione. Sì, direi che la tua osservazione, l'osservazione dei due radioascoltatori, tutte queste tre osservazioni sono molto fondate, perché sono concentriche e vanno sul discorso dell'enfatizzazione che noi diamo delle volte alle imprese tecniche e alla sottovalutazione o addirittura sopravvalutazione quando ci sono dei provvedimenti disciplinari. Allora, le osservazioni che vengono dai radioascoltatori, una mi sembra un po' troppo severa, cioè dice Mario fino al momento del gol era da 5 più o 5, no, secondo me no, secondo lui sì, e per carità tutte le opinioni hanno cittadinanza, secondo il mio punto di vista aveva fatto un buon primo tempo e come minimo era sul 6, dopodiché il gol è un gol decisivo, è un gol importante, è un gol che si cerca lui, era una palla mezza morta, sfiorata da Giaccherini, insomma gli va riconosciuto che il gol è tutto suo, perché è fatto di forza, di astuzia, di grande volontà, di grande fame. Dopodiché certo noi non dobbiamo caricarlo, non dobbiamo esagerare, però non devono esagerare neanche gli allenatori, cioè io credo che appunto aver costruito un modulo come quello di ieri, un sistema di gioco 4-3-1-2, un'unica punta, in pratica 5 centrocampisti, significava dare a Balotelli una grande responsabilità. È vero, bisogna essere onesti, che Prandelli non aveva alternative perché le condizioni degli altri attaccanti non sono molto buone. Tuttavia, mettere tutto sulle spalle di Balotelli può essere eccessivo. Comunque non esagerare in linea di massima è sempre una bella regola. Tutti convocati. Ma c'è questa regola di due gialli, non lo sapevo, la prossima volta non lo faccio. Ma è possibile che non sapesse della regola del secondo giallo? Ci ha scritto un amico da casa, 349-238-6666, Giancarlo Padovan. No, dai, non è possibile, ma lo abbiamo detto. Mi interessa più chiudere il ragionamento sull'Italia ripartendo dalle tue ultime parole. Speriamo che l'Italia faccia bene a questa Confederation. Speriamo che Prandelli riprenda poi a settembre il cammino verso il 4-3-3, che doveva essere l'approdo per il Mondiale del 2014. amici. Speriamo che magari delle buone prestazioni di Balotelli in queste due settimane non lo convincano che si può fare anche con una punta sola. Sì, lo spero, lo speriamo tutti, ma credo che sicuramente Prandelli virerà verso il 4-3-3. Giustamente tu hai ricordato che questo 4-3-3 sarebbe dovuto essere il sistema di gioco già in questa Confederation, però le condizioni di forma di alcuni calciatori hanno imposto questo 4-5-1, se vogliamo, 4-3-2-1, come che dir si voglia, insomma, un modulo un pochino più speculativo, un modulo un pochino più che tende a creare argine al centrocampo per ripartire poi in velocità, subito palla a terra, palla subito sulla prima punta e unica punta. Però devo ricordarti anche che l'anno scorso, un anno fa esattamente, all'Europeo noi arrivammo con un sistema di gioco e poi Prandelli ne utilizzò un altro. Difendevamo con quattro difensori, avevamo un centrocampo a tre, avevamo in teoria un trequartista dietro le punte, eppure si giocò col 3-5-2 proprio per ovviare anche in quel caso a una defezione che era quella di Barzagli. Difatti per le prime partite venne arretrato De Rossi, quindi da un certo punto di vista è bene avere versatilità tattica, dall'altro è meglio non sposare questa versatilità con l'eccessiva prudenza, perché se poi si vuol fare un mondiale da protagonisti, come si è fatto un europeo da protagonisti, le partite bisogna giocarle a viso aperto e anche il sistema di gioco secondo me conta. Sì, e la punta unica rischia alla lunga di essere un problema, a meno che tu davanti non abbia un fenomeno assoluto, e Balotelli in questo momento non lo è. Alcuni giornalisti, scrive Nico da Caserta 349-238-6666, ad alcuni giornalisti andrebbe tolta la penna, basta un gol per farlo diventare un fenomeno. Se volete vedere i veri fenomeni andate ad osservare l'Under 21, domani ne parleremo lungamente perché domani è la giornata che porta alla finale contro la Spagna. Direttore, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, andiamo a Napoli da Massimiliano che ha chiamato l'800-24-0024. Massimiliano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A lei, signor Capuano. Io le voglio, ritornando sempre a Balotelli, ieri ha fatto un bel gol senza dubbio, ma se ci fossero stati Bonucci e Chiellini in difesa, l'avrebbe fatto quel gol? Beh, di sicuro il difensore messicano Padovan gli ha dato anche una mano, è stata una marcatura un po' morbida. Beh, diciamo che il capitano Rodriguez, mi pare che si chiami, il capitano del difensore centrale e capitano del Messico, è stato uno dei migliori tra gli italiani, nel senso che ne ha combinato di tutti i colori, ha sbagliato due o tre rilanci e gli ha dato una mano perché gli ha permesso di fare perno su se stesso. Io credo che Massimiliano abbia ragione, forse con Bonucci e Chiellini o con Barzagli e Bonucci, insomma con dei difensori italiani, ma anche con Astori, tanto per dire un difensore molto bravo, sarebbe stato più difficile per Mario, ma si sa, la forza di un campione è anche quello di profittare della debolezza dell'avversario. Certo. Gianfranco da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Allora, il discorso sta su due, mi sento un eco io. No, prego, sento, noi la sentiamo eco. Benissimo, vada. Allora, due punti, un Balotelli super non credo, bisogna andarci piano perché Balotelli è un capriccioso, è un arrogante, si rende anche antipatico quando gioca, lo ha detto perfino Volpi. Oh, per quanto riguarda poi la nazionale, è una nazionale che lascia una vittoria su tre incontri, due pareggiati, si vede che è un po' antica, un po' ci sarebbe da fare anche lì una specie di rottamazione. E comunque Prandelli non si mette in testa che il mondiale non lo vincerà. Beh, ma grazie Gianfranco, io non credo però Giancarlo che Prandelli pensi di vincere il mondiale, io credo sia consapevole di avere almeno due o tre nazionali che sulla carta sono più forti. Quanto alla simpatia di Balotelli, il fatto che l'abbia detto Usain Bolt, se mi permettete, vuol dire tutto e vuol dire nulla, Giancarlo. Sì, certo. Mi pare che Gianfranco sia molto severo, onestamente, nei confronti. Anche sulla rottamazione, non lo so. Anche sulla nazionale italiana, però la sua opinione, ecco, come abbiamo detto, nella sua trasmissione vale l'opinione dell'ascoltatore e noi la rispettiamo. Detto questo, io sono convinto che Prandelli sappia quanto sia difficile vincere un mondiale e sa anche, sappiamo anche, ci ricordiamo anche che quello vinto nel 2006 è stato vinto certamente con merito, ma grazie anche a un tabellone che ci ha fatto incontrare degli avversari davvero morbidi, almeno fino alla semifinale con la Germania. E quindi contano tante cose, lo stato di forma, la situazione generale. Poi pensate, ricorderete, l'Italia veniva dal turbine del calcio scommesse, eppure trovò energie, risorse, forse anche quello fu un motore per superare certe difficoltà. Per quanto riguarda Balotelli, sì, non si rende molto simpatico, però cioè, è simpaticissimo ad alcuni, sta un po' meno simpatico ad altri, in linea generale, però ricordiamoci che è un ragazzo giovane con delle esuberanze che vanno come dire in qualche modo temperate. Non sarei così severo con lui, anche se ecco sarei severo soprattutto sugli atteggiamenti in campo, poi quelli fuori sappiamo che è un po' ingenuo, un po' sbruffonesco, un po' frutto della società, insomma io direi che possiamo essere a usare la mano leggera. Su Twitter Emanuele propone per il prossimo anno il 4-1-4-1 con De Rossi o Montolivo davanti alla difesa e poi Cerci, Pirlo, Verratti e Insigne con Balotelli punta unica e chiede fattibile. Fattibile, tutto è fattibile nel calcio, però è contro la nostra idea, cioè una unica punta. È vero che Cerci sarebbe una sorta di punta esterna, è vero che Verratti imbeccherebbe molto con molta facilità il gioco di Mario, però una punta secondo me finisce per marcarsi da sola e si finisce per dare impasto a un paio di difensori, neanche a quattro difensori, a un paio di difensori centrali o la nostra punta e si rende e si rischia di facilitare il gioco avversario. Sì, poi tra Pirlo, Verratti e Montolivo non so chi garantisce protezione alla difesa. Grazie a Giancarlo Padovan. Grazie a voi, grazie a te. Grazie a Giancarlo Padovan, noi andiamo avanti, 800 24 00 24, Franco da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Niente, volevo parlare un attimino di un giocatore che non si è parlato, è De Sciglio. Dica. Questo ragazzo ieri sera è stato uno dei migliori in campo. Ha fatto una buona partita, certamente. Ma ci fosse stato un giornalista, un commentatore che gli ha parlato di questo ragazzo, un ragazzo di 20 anni che ha fatto un figurone da veterano, però tutti l'attenzione puntata su Balotelli, va bene, parliamo di Balotelli. Beh, a me sembra che De Sciglio in realtà questa mattina sui giornali sia stato gratificato con delle ottime pagelle. Provo a scorrere la Gazzetta dello Sport che ad esempio gli riconosce un 7 e quindi lo mette tra i migliori alle spalle di Pirlo, che è il migliore con 8, e dello stesso Balotelli. Certamente De Sciglio è una delle scommesse fin qui vinte più importanti del nostro calcio, vale per il Milan e da questo punto di vista è stato bravissimo Prandelli a non farsi spaventare dalla sua giovane età e a lanciarlo. Poi io credo che per De Sciglio valga quello che va detto per tutti i giovani, e cioè bisogna dargli il tempo anche di avere dei momenti di flessione. A Milano ad esempio si è vista la parabola di Santon, che sembrava allo stesso modo un predestinato e poi si è perso. Speriamo che per De Sciglio questa continuità nei prossimi anni venga invece confermata. Giuseppe dalla provincia di Cuneo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi. Volevo chiedere notizie di El Shaarawy, nel senso che questo ragazzo che sta vivendo un momento delicato si trova in una situazione dove se ieri sera non ho capito se non ha giocato perché era infortunato o quali altre cause ci possono essere, però mi sembra che si stia distruggendo un giocatore straordinario mettendogli quell'ansia addosso di cui si parla per Balotelli da un punto di vista così psicologico, però da un punto di vista anche di quelle che sono le capacità di un giovane di potersi credere ancora capace di poter fare quello che è in grado di fare. In questo modo si trova in una situazione dove vede un allenatore della propria squadra che lo sacrifica qualifica in panchina. In nazionale mi pare che stia facendo la stessa fine. Non vorrei che giocatori promettenti, come lo sono lo stesso De Sciglio e tanti altri, e poi la crisi del gol. La crisi del gol c'è sempre stata per gli attaccanti, è normalissimo. Quindi andare a caricare di responsabilità, come dicevate voi, mi sembra che sia anche per il Sharawi un argomento da non sottovalutare. Ma lo dico come patrimonio non solo del Milan, ma della nazionale sì, stessa. Giuseppe, a patto che poi non si diano delle colpe ad Allegri, che colpe da questo punto di vista non ha, perché Allegri ha tenuto in panchina il Sharawi per due partite in un girone di ritorno in cui il Sharawi praticamente non ha mai visto la porta e da febbraio in poi non ha segnato. Io penso che per lui si possa dire quello che abbiamo detto un minuto fa per De Sciglio: a quell'età capita di avere magari dei mesi in cui il rendimento è altissimo e poi di entrare in periodi in cui si fa fatica, e si fa fatica a superarlo anche dal punto di vista psicologico. El Shaarawy avrà certamente tempo di risollevarsi. Per quanto riguarda le voci di mercato, ne abbiamo parlato venerdì con Marco Bellinazzo, ci sono poi logiche di bilancio che esulano le valutazioni dal punto di vista tecnico. Se il Milan cederà El Shaarawy, lo farà proprio perché El Shaarawy è un ottimo prospetto e per questo interessa al mercato, ed è il mercato che decide quali giocatori andarsi a prendere se una società anche importante come il Milan ha bisogno di fare una cessione per finanziare poi tutta la campagna acquisti. Tutti convocati. Attenzione, perché c'è un'invasione collettiva adesso. Adesso stanno arrivando praticamente tutti in campo. È stato aperto un varco. Giacomo, io ho trovato riparo negli e c'è massima attenzione, potrei capire. Qui è entrata la polizia. Di tutto sta succedendo, con addirittura una panchina di velta che viene buttata all'interno. Ci sono le forze antisommossa che sono all'interno. Questo era quello che non si voleva commentare. E c'è stato anche questo nella Domenica del Calcio Italiano, erano le voci concitate dei colleghi di Rai Sport, la telecronaca del finale disgustoso di Lecce-Carpi. Aspettiamo notizie da Lecce. Questa mattina è arrivata la notizia del primo arresto, ma io lo dico, erano tutti lì a volto scoperto, ci sono le immagini, quindi aspettiamo altre notizie da Lecce. 800 24 00 24, Davide da Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Pronto, buon pomeriggio e grazie per la convocazione. Prego, a lei. A me dispiace parlare di Mario in questo momento, dopo che ho appena sentito le notizie da Lecce, che ovviamente è una vergogna del calcio italiano, ma d'altronde cosa possiamo fare? Siamo purtroppo abituati, quello a cui non siamo abituati è che accada magari anche da noi quello che è successo proprio in queste ore in Francia, dove per due settimane la polizia ha indagato sugli incidenti in una gara del campionato amatoriale, immagini terribili che poi sono state pubblicate l'altra mattina dalle Parisienne. Dopo due settimane il video è stato reso noto e non sono andati leggeri con i responsabili che sono stati identificati. Noi aspettiamo notizie da Lecce, dove, ripeto, ci sono le immagini ed erano tutti a volto scoperto. Davide, prego. Sì, niente, io volevo fare due parole su Mario, una mia piccolissima considerazione. Abbiamo un attaccante che è straordinario, secondo me, per potenza, classe. Sì, ha detto la sciocchezza che non sapeva delle due ammonizioni, poteva fare a meno di dire quella sciocchezza, ma per il resto non lo so, come possiamo comunque in ogni caso sempre trovarci qualcosa che non va bene in quel ragazzo, che è straordinario, esplosivo e buona, questo era il mio pensiero. Ma io credo, avercene non c'è dubbio, e così come non c'è dubbio che il Milan quest'inverno ha fatto dal punto di vista tecnico ed economico un affare colossale a riportarlo in Italia, e forse esagerava il suo procuratore Mino Raiola quando diceva che la Premier League aveva perso il 50% del suo valore perdendo Mario Balotelli, però certamente il campionato italiano ha ritrovato un top player in un'epoca in cui i grandi giocatori, piuttosto che venire, se ne vanno, lasciano la nostra Serie A. Poi Balotelli è un personaggio che divide, che fa discutere, soprattutto per i suoi atteggiamenti, e quindi io credo che ci dovremo rassegnare anche a questo, e cioè che anche delle buone partite, delle buone prestazioni come quella di ieri contro il Messico, alla fine facciano poi discutere magari per la sciocchezza, l'errore, l'ingenuità, come ad esempio è capitato ieri con quell'ammonizione. Andrea D'Ancona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Gente? Sì, prego. Buongiorno, grazie della convocazione innanzitutto. Dica. Niente, io volevo dire che andrò molto controcorrente, però io sono del parere che onestamente Balotelli gioca troppo da solo. Secondo me è un problema che si è montato un po' alla testa, e come alla palla tira, da qualsiasi posizione, lui è bravo, lui tira forte, secondo me un pochino, adesso forse esagero, però forse un pochino è anche colpa di quanto è stato pompato dai giornalisti, dagli addetti ai lavori, lui è un fenomeno, non lo so, io la penso così, per carità, è un gran giocatore, però secondo me se continua così praticamente rischiamo di giocare troppe partite in 10. Sì, io però non condivido, Andrea. Conosco Balotelli da quando giocava nella primavera dell'Inter, per averlo seguito. Balotelli è oggi esattamente come era a 16 anni ed è un giocatore pienamente consapevole delle sue capacità, e quindi è un giocatore che in campo decide lui quando tirare, quando servire gli assist, quando mettersi al servizio della squadra, come ad esempio secondo me ha fatto in maniera molto intelligente anche nella partita di ieri sera contro il Messico, perché poi molto del lavoro per far salire i compagni è stato reso possibile anche dalla sua capacità di difendere il pallone e difendere gli spazi. Però è vero che è un giocatore che quando decide che è la partita che lui vuole tirare in porta, lo fa. Lo abbiamo visto anche con il Milan in alcune occasioni nella parte finale del campionato. Giovanni dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Anche a lei, grazie. Prego. Buonasera. Ma io forse mi ha anticipato prima un altro ascoltatore, che si dimenticavano ieri che c'è stato un ragazzo giovane come De Sciglio, che ha coperto la difesa in modo esemplare, sembrava quasi il Baresi del Milan degli anni migliori. E poi una cosa, Balotelli è come Berlusconi, pure che se ne parla di Balotelli è sempre lì sulla bocca di tutti. Dovrebbe farci una dose un attimino un po' più di felicità, perché sembra sempre incazzato, cammina in campo come se fosse, non so, come se avesse delle zavorre ai piedi. Cioè, per avere 20 anni o 22 anni, un po' più di allegria, secondo me. Va bene. Guadagna. Sottoscrivo Andrea, grazie. E saluto Michele Criscitiello di Sport Italia. Ciao Michele, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi tutti, ciao. Dove va Tevez? Ma noi stiamo puntando tutto sulla Juventus, perché si è mossa con 20 giorni in anticipo, perché ha fatto una proposta da 12 milioni di euro al Manchester City, perché il calciatore ha già parlato 20 giorni fa, ovviamente rispetto a questa sessione estiva di calciomercato, offrendo un contratto non proprio povero, 5,5 milioni di euro a stagione per le prossime 3 stagioni, considerato che lui scade nel 2014 col Manchester City, la proposta della Juventus è allettante. Giovedì scorso si è scatenato il putiferio, noi abbiamo comunque dato su Sport Italia, nel corso della trasmissione abbiamo spiegato anche su tutto mercato web quello che era stato il retroscena dell'arrivo dell'agente di Tevez a Milano. Chia era a Milano per incontrare Leonardo, direttore del Paris Saint Germain, per liberare l'amico Ancelotti, perché Chia è molto amico di Ancelotti. Gattani era in crociera, ha preso l'aereo, è arrivato da Atene, una volta saputa della presenza di Chia a Milano è arrivato al Principe di Savoia, e poi giustamente davanti alle telecamere, davanti ai fotografi, ha giocato un po' su questo aspetto. Ma il vero incontro, e chiudo, tra Chia e Galliani si è parlato di Julio Cesar per la porta del Milan e di un difensore brasiliano di 22 anni proposto da Chia al Milan. E con questo mi pare di capire che il tuo pensiero è che non si riformerà la coppia con Balotelli, visto che Di Mario stiamo parlando e molto oggi, e quindi torniamo in tema, non si riformerà questa coppia l'anno prossimo a Milanello. Io rimango un po' perplesso nel leggere che il piano B del Milan non dovesse arrivare Tevez, si chiama Alessandro Matri, e non perché ho un giudizio particolarmente negativo di Alessandro Matri, però evidentemente stiamo parlando di due pianeti che soltanto si sfiorano, anche soltanto a livello di appeal. Michele? Ma sì, oltre che di appeal a livello di economico, a livello di caratura, a livello di immagine, a livello di merchandising. Possiamo continuare fino a domani mattina, però poi a Radio 24 dovete chiudere le saracinesche perché ce ne dobbiamo andare, troppo tardi, quindi è inutile fare paragoni tra Matri e Tevez, però secondo me Matri non è il piano B in questo momento, il Milan e il Tevez non è il piano A, è diverso, potrebbe sembrare la stessa cosa ma è diverso. Il Milan ha perso terreno nel gennaio 2012 con Tevez e secondo me per Galliani resta la grande misfatta del mercato dei suoi 27 anni di gestione, una fotografia di immortalare Chia e Tevez che sorridono per un accordo chiuso e poi Tevez al Milan non arriva, quindi oggi il Milan è in netto ritardo per Tevez, perché se la Juventus ha praticamente definito, non chiuso, attenzione, definito l'operazione 20 giorni fa, ovvio che la Juventus va su tutte le furie, sia Paratici che Marotta, Agnelli che Conte, quando vedono poi delle immagini in televisione con l'agente di Tevez che si abbraccia con Galliani, che poi abbiano parlato di qualcos'altro, ci sta assolutamente, però la Juventus questo non l'ha gradito. Secondo me da qui nasce il margine di vantaggio della Juve rispetto al Milan ed è quello che praticamente stiamo dicendo ormai da giovedì. Quando c'è stata la svolta Tevez non c'è mai stata, perché la Juventus conserva questo vantaggio. Se il Milan si presenta con tanti tanti tanti soldi, allora ci può essere un sorpasso, un controsorpasso, ma ad oggi il Milan non ha proposto nulla né al Manchester né allo stesso calciatore. Ho l'impressione, e poi ti saluto e ti ringrazio, che comunque quella di Tevez resti, a prescindere, la pista più percorribile per la Juventus, anche perché mi pare di capire che su Tevez ci sia la Juventus, magari Galliani può averci fatto un mezzo pensierino, ma non ci sia poi una grande concorrenza straniera, quella che ad esempio si sta scatenando su Higuain e Jovetic, e quando poi si muovono ad esempio i club inglesi, anche per una società solida dal punto di vista economico come la Juventus diventa difficile. Io sono d'accordissimo con la tua analisi che hai appena fatto su Tevez, la Juventus è in vantaggio perché si è mossa molto molto molto prima, ovvio che adesso il Milan c'è lo spettro perché comunque da Galliani ti puoi aspettare di tutto perché è il numero uno dei dirigenti d'Italia, è uno dei primi 3-5 in Europa e comunque ha un'esperienza di quasi trentennale, quindi fa bene la Juventus a preoccuparsi del Milan, però ha un vantaggio. Se noi dobbiamo parlare di Higuain, Jovetic e Tevez, la Juventus paradossalmente il vantaggio maggiore ce l'ha proprio su Tevez, perché con la Fiorentina non si parla e c'è il problema Jovetic, anche se Jovetic ha ormai da 6 mesi l'accordo economico con Paratici e Marotta. Higuain invece c'è un problema con il Real Madrid e c'è una concorrenza forte. Certo, 30 milioni di euro non è fattibile a queste condizioni. Se Higuain vale 30, tutta la vita la Juventus chiude per Tevez, 12 più 3 anni di contratto a 5 e mezzo stagione. Certo, grazie Michele Criscitiello. A voi buon proseguimento, ciao ciao. Tutti convocati. Lucia da Lecce scrive: caro signore, noi leccesi siamo persone civili, i facinorosi sono ovunque, lo dica, grazie, lo dico, i facinorosi sono ovunque. Ieri a Lecce ce n'erano almeno 200 nel prato verde dello stadio di Via del Mare, sarebbe bello che arrivassero notizie sulla loro identificazione. Oggi ha parlato il presidente della Lega Beretta sulla finale di Supercoppa che divide Juventus e Lazio. Ma guardi, ormai direi che è abbastanza, io penso, scontato dire che si giochi in Italia e che si giocherà il 18 di agosto, anche perché le finestre a disposizione sono veramente poche. Con calma, con estrema calma. Intanto in Cina fra 2 anni andranno gli spagnoli, perché quello è un mercato ricco e noi facciamo a gara per non andare a rispettare un contratto che abbiamo sottoscritto. E non è solo questione di Juventus e Lazio di quest'anno, perché è una storia che si ripete tutti gli anni. Le tre frasi del weekend. Terzo posto, Hackett. Per me è stata una scelta difficile quella di lasciare Pesaro. E insomma arrivare qua a Siena, dove si era appena chiuso un ciclo storico, un ciclo di 6 scudetti e un dominio assoluto sia in Italia che in Europa, quindi c'era tanto in ballo, però ho scelto di venire qua con umiltà e con voglia di proseguire quello che di bello stava facendo Siena, e con tanto lavoro siamo arrivati a ottimi risultati, siamo qui a giocarci lo scudetto. Questa sera gara 4, adesso arriva Mario Boni e ne parliamo. Secondo posto, Valentino Rossi contro Bautista. Vorrei non esprimere il mio aggettivo su Bautista, perché sarebbero delle parolacce, perché dopo avermi steso il Mugello, averci riprovato anche oggi la gara dopo, vuol dire proprio che non capisce probabilmente, però fortunatamente ha sbagliato mira, fortunatamente per lui ma anche per me. E al primo posto l'intervista impossibile ad Andrea Pirlo, spogliatoi del Maracanã. Ce la racconti quella punizione, vista da te? No, mi sono messo lì, pensato solo a tirare il meglio possibile, cercando di far gol, e sono riuscito a farlo bene. Meraviglioso. Ciao Mario Boni, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao, ciao. Parliamo un po' di basket, perché poi gli amici da casa 349-238-6666 ci sgridano, parlate solo di Balotelli e questa sera c'è gara 4 della finale Scudetto. Beh, partiamo da qui, 2-1 per Siena, però fin qui il fattore campo è saltato due volte su tre, quindi mi sembra di poter dire pronostico apertissimo, a prescindere. Ma sicuramente ogni volta cambiano quelle che sono le carte in tavola, perché non mi aspettavo una Roma così convinta in gara 3 ed è successo quello che non è successo nelle altre partite, cioè Roma è calata negli ultimi 5 minuti e quindi sai, ogni partita deve essere presa con le pinze, non c'è un pronostico facile da fare. Sì, anche perché per molti dei giocatori che questa sera a Siena giocano gara 4 è la 18ª partita in 38 giorni, mi sembra di poter dire che in questa serie di finale il fattore fatica sia un fattore che si sta facendo sentire in maniera importante. Beh, sai, giocare così tante partite è sicuramente condizionante, però io non, come dire, ho trovato entusiasmante questa formula, perché la risposta sui campi è stata incredibile con tante persone e poi è bello, è avvincente. Di fatto c'è la stanchezza, però sai, a volte io credo che l'adrenalina di un impegno così importante ti faccia dimenticare anche la stanchezza. Bellissima, a me piace l'amico in comune Carlo Genta, che tornerà mercoledì, lo dico a tutti gli amici di tutti i convocati, invece critica questa formula sulle sette partite, che però ci ha permesso ancora una volta di sottolineare come Siena sia una squadra che non muore mai, non finisce mai. Siena è micidiale, perché dopo aver cambiato completamente il roster con una squadra che come tasso di talento e di tecnica è nettamente inferiore alla Siena degli anni passati, ma così come era inferiore a Milano, però sembra quasi che quando uno va a Siena recepisca anche un DNA, una caratteristica che è quello di non mollare mai e di sapere giocare i momenti decisivi bene. Marco da Bologna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Salve. Volei qualche suo commento sulle finali NBA tra Miami e San Antonio, visto che nelle prime 5 gare si sono date vicendevolmente 20-30 punti a partita, con gare a distanza di 2-3 giorni. Sembra quasi che chi di dovere punti tutto a gara 7 solo per lo spettacolo. Solo per lo spettacolo. Grazie Marco. Mario, questa notte è successo questo, sentiamolo. Ginobili jab step, drives on James, falling away, knocks it down! Another circus shot for Ginobili. È stata la notte di Manu Ginobili, lo davano tutti per morto ed è stato il grande eroe della vittoria di San Antonio in gara 5. Bello il basket, lo sport in generale per queste storie. Poi sai, non sottovalutare, non dimenticare mai il cuore dei campioni. Manu Ginobili ha dimostrato in NBA di essere un grande giocatore, tutti lo davano, io no, per finito, invece se era solo un momento di appannamento, grande prestazione. Riguardo poi alla domanda dell'ascoltatore, è un pronostico anche questo difficile, ho visto LeBron e i Miami un po' più stanchi, forse qualche chance in più di vincere il titolo ce l'hanno veramente i San Antonio Spurs. Sì, anche se concordo con chi dice che se lo vincono lo devono vincere in gara 6, perché trascinarsi alla 7ª partita sempre a Miami questa serie diventerebbe abbastanza complicato. Non voglio nemmeno pensare che si vada a gara 7 sullo spettacolo, perché si sono messi d'accordo, perché qui entriamo in un campo davvero impossibile da percorrere, Mario. Beh, insomma, adesso va bene che i biglietti, gli incassi fanno gola, però non è sicuramente questo il motivo. Io credo che se stasera darà sicuramente tutto, la prossima sera San Antonio darà tutto, però ecco, a me piacerebbe vivere a gara 7, perché gara 7 è vivere o morire. È il succo di una serie playoff, tutto in una sera. Per chiudere, Mario, una domanda da Marco su Twitter: cosa ne pensi delle voci su Datome in NBA? È pronto? Ma il fatto che, le voci di Datome, il fatto che come contratto lui potrebbe strappare poco più di quanto prende a Roma, perché i soldi che prende Roma non sono così male, rischierebbe andare in NBA di non giocare così tanto. Quindi il mio consiglio personale a Datome è di rimanere in Europa, possibilmente in Italia, e di accontentare anche la possibilità di avere poi la possibilità di fare un buon ingaggio. Ecco, io non guarderei l'NBA come un mondo dove può avere solo soddisfazioni, ecco. Sì, si possono anche trovare da altre parti, certo. Non necessariamente andando dall'altra parte dell'oceano. Grazie a Mario Boni. A te, ciao a voi tutti. Grazie Mario Boni, siamo arrivati in conclusione. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata di Tutti Convocati. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento è per domani alle 14:05, come di consueto. Parleremo ancora di pallacanestro per parlare di Siena-Roma di questa sera. Parleremo dei diritti TV, cosa cambia nel mercato televisivo italiano a partire dalla prossima stagione, e poi tanta Under 21, perché domani è il giorno d'Italia-Spagna.